attenti e loda Dio. E senti che da portare una buona nuova, e inviata così ci trova. E ni ci trovano in terrazzi Dio e di Maria ancora. E lodiamo la dottore, lo santissimo protettore. La Madonna è monti serrato, anni mia non ci ha venuto. E lodiamo lo spesso spesso, lo santissimo crocifisso. E chittiamo gli ali sopedi, che la razza si concede. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. E stasera non va a scurare, che la razza ne va a fare. E ludamo la San Francisco, che si tiene in un vino fresco. Iamo, iamo a sti canti canti, che c'è Dio con le santi. E in te la mezzadia c'è la Vergine Maria. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Si fuori una di luvento, padre, figlio, Spirito Santo. Si fuori una di luvento, padre, figlio, Spirito Santo. Si fuori una di luvento, padre, figlio, Spirito Santo. Si fuori una di luvento, padre, figlio, Spirito Santo. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento, caso scia lo vento. Spaglia, spaglia lo frumento.